Voglio stare solo con me stesso, voglio stare solo come adesso, voglio stare solo e senza inganni, voglio uscire da tutti questi affanni. E voglio stare solo in questo mondo disperato, non mi frega un cazzo se non vuoi che io te lo dica in faccia. Voglio stare solo, voglio stare con me, voglio stare solo nel silenzio che c'è, voglio stare solo contro la volontà, voglio stare solo via da questa città. Buio dove non c'è niente, e voglio stare solo in questo mondo disperato, non mi frega un cazzo se non vuoi che io te lo dica in faccia. Voglio stare solo, voglio stare con me, voglio stare solo nel silenzio che c'è, voglio stare solo contro la volontà, voglio stare solo via da questa città. E siamo anime piene di passione. Solo nel silenzio che c'è.